Radio Grad, la radio libera e resistente. Ben ritrovate, ritrovati su Cubinforma, sono Federico Giusti, vi vogliamo parlare oggi della manovra che sta ormai concludendo il suo iter e a breve sarà votata in Parlamento, una manovra di bilancio che conferma tutte le sue criticità più volte evidenziate in radio, ossia una manovra che non va a tassare i grandi capitali, le plusvalenze, che non va a tassare i redditi elevati, che non introduce delle aliquote fiscali progressive in rapporto poi al reddito posseduto e investe poco o nulla in sanità e in istruzione. Mentre proseguono i lavori nelle commissioni parlamentari, si comincia comunque a vedere già alcune revisioni. Beh, intanto ci sarà un taglio dell'aliquota dell'imposta sulle società a tutte quelle aziende che trattengono una quota degli utili in azienda per investire questi utili in tecnologie, nuove assunzioni, welfare o formazione. Praticamente ancora una volta lo Stato finanzia il rischio di impresa. Ora non è ancora chiaro, dovremo vedere il testo finale una volta approvato, però da quanto emerge da alcune fonti governative ci dovrebbe essere uno sconto di 4 punti, portando quindi l'aliquota al 20%, ma con un costo aggiuntivo di 400 milioni di euro che dovranno essere coperti in qualche modo. E in che forma? Probabilmente con quell'anticipo chiesto alle banche e alle assicurazioni, che poi in fondo è poca cosa e soprattutto gli dovrà essere in qualche modo restituito. Ora, questi giorni ci sono discussioni che vedono protagonisti i vari partiti al governo, ognuno per trarre piccoli vantaggi a favore dell'elettorato di riferimento. Non è dato sapere quale parte prevarrà. Sicuramente l'elemento fiscale ha dominato tutta questa manovra finanziaria secondo la logica di ridurre sempre più le tasse, ma c'è un aspetto importante che riguarda il turnover negli enti locali, che era stato per il 2025 in parte bloccato al 75%. Ecco, ora sembra che per gli enti locali, per le forze dell'ordine, questi due comparti, quindi non ci sarà l'obbligo fare assunzioni al massimo per il 75% delle uscite. Ecco, potrebbe ritornare la possibilità assunzionale al 100% per quelli che sono andati in pensione. Ma qualora fosse giusto, e noi crediamo non lo sia, prevedere un trattamento diseguale tra comparti della pubblica amministrazione, anche questo poi risponde a una logica assolutamente perdente, che è quella poi di distribuire in manovra di bilancio dei contentini. Teniamo buono l'ANCI, teniamo buoni gli enti locali, anche quelli gestiti dal centrodestra, che rispetto a questa manovra avevano espresso innumerevoli perplessità. Devono portare avanti i progetti del PNRR, per realizzarli c'è bisogno di più personale rispetto poi a quello che oggi è in organico. Ma il limite assunzionale in tutta la pubblica amministrazione ha riguardato lunghi 9 anni di questo secolo, e quindi prevedere un trattamento agli enti locali e alle forze dell'ordine, non ad esempio in sanità e ricerca, ci sembra veramente una scelta completamente errata, diremo quasi folle. Poi fra gli emendamenti ai tavoli ministeriali c'è anche l'addio all'aumento della tassazione per i bitcoin, e anche questo argomento dovrebbe indurre a grandi riflessioni, anche per gli interessi che si muovono negli Stati Uniti attorno ai bitcoin. E ci sarà poi anche la cancellazione del limite di esenzione fino a 2.000 euro per le plusvalenze soggette al prelievo del 26%, ma rinunciare in partenza alla tassazione di Bitcoin è un altro esempio di come poi questo governo alla fine non voglia andare a toccare gli interessi più grandi del potere economico e finanziario. Poi ci sono altri argomenti, ad esempio il silenzio assenso sul TFR, anche lì potrebbe esserci un accordicchio con le organizzazioni sindacali che sappiamo essere molto interne alle logiche della previdenza e della sanità integrativa. Nei prossimi giorni le commissioni dovranno discutere di questi argomenti. Ma chiudiamo su due punti che ci sembrano invece molto rilevanti. Il primo è rappresentato dall'imposta sulle persone fisiche, no? C'è un piccolo aumento microscopico da 30 a 35 mila della soglia che dà diritto alla flat tax del 15%, che poi diventa il 5% per l'inizio dell'attività. Ecco, avere aumentato la soglia della tassa piatta per i lavoratori autonomi è l'ulteriore esempio di come questo governo poi alla fine faccia di tutto per non avere un gettito fiscale adeguato da investire in sanità, istruzione e welfare. Si continua con un trattamento diseguale, soprattutto iniquo rispetto poi a come vengono trattati i lavoratori dipendenti a favore delle partite IVA. E poi c'è una decisione che ci lascia alquanto basiti, riguarda la sanità, e c'è una mini tassazione al 5% per gli straordinari di infermieri e di specializzandi. Una delle richieste storiche del sindacato, ma anche della forza lavoro sanitaria, era quella di nuove assunzioni, perché noi abbiamo dei vuoti di organici che sono veramente preoccupanti, tanto che nei periodi estivi abbiamo visto alcuni padiglioni chiusi, accorpati con altri, perché mancava personale. Oppure l'affidamento di innumerevoli servizi a lavoratori interinali o a cooperative. Ecco, invece di fare una politica assunzionale seria, che permetterebbe anche di svecchiare una forza lavoro già avanti con gli anni, si pensa di andare a ridurre ai minimi termini al 5% il lavoro straordinario. Quando sappiamo che il lavoro in sanità è particolarmente gravoso e quindi invece di accrescere le prestazioni aggiuntive all'orario settimanale, si dovrebbe trovare il modo invece di alleggerire le cariche di lavoro. Ma così il governo non intende fare. E c'è un altro aspetto importante che riguarda invece la mancata proroga dell'esenzione IVA per tutte le ONLUS e le associazioni del terzo settore. E anche su questo c'è un giallo bifronte, perché da una parte si liscia il terzo settore, il privato sociale, perché sappiamo che innumerevoli servizi sono gestiti dallo stesso con contratti sfavorevoli, ma dall'altra non si mostra la stessa benevolenza riservata alle partite IVA e ad altri settori economici piuttosto forti. Dal 1 gennaio il no profit quindi sarà soggetto all'imposta e quindi si va ad attaccare le associazioni non a scopo di lucro, quando invece si riservano trattamenti di favore nei confronti di aziende che manco investono poi per la formazione, per i processi di innovazione tecnologica e anche per nuove assunzioni. Ora il negoziato con l'Unione Europea dovrà riprendere una volta approvata questa manovra di bilancio. ma ci sembra evidente che questa manovra sta intensificando i principi di detassazione. Guardate, quando parliamo di tasse, noi non intendiamo assumere un atteggiamento contrario alla forza lavoro. Pensiamo semplicemente che si debbano aumentare gli stipendi, il loro potere di acquisto, aumentare le pensioni, il potere di acquisto delle pensioni. E non si può pensare invece di ricorrere a degli sgravi fiscali che poi ricadono sulla fiscalità generale, sui cittadini in generale. Bisogna che le imprese comincino a tirare fuori di tasca loro i soldi che sono stati accordati attraverso generosi ricorsi alla cassa integrazione, agli ammortizzatori sociali e a continui sgravi fiscali. Questa politica non ha premiato l'occupazione, ha impoverito il welfare, ma il governo Meloni e i suoi alleati sembra che invece vogliano procedere sempre su questa strada. E da qui la necessità di proseguire la mobilitazione, di non fermarci allo sciopero generale del 29 novembre, ma di comprendere come il mancato coraggio del governo nella manovra di bilancio presto ci ripresenterà in toto tutti i problemi non affrontati. Da Federico Giusti un saluto. Never knock. Every job I offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Radio Grad, la radio libera e resistente.